Sì. Chi è stato a fare tutto questo non si sa ancora. Perché? Non lo sappiamo. Che danni ha fatto? Non lo sappiamo, neanche in questo caso. Così ci raccontava infatti nel maggio scorso Gianni Tartari, dell'agenzia specializzata del CNR per l'acqua, che ha sede a Brugherio, quindi ironia della sorte, nel cuore del disastro del Lambro. Noi siamo stati chiamati dall'autorità di bacino del Po, con la quale abbiamo degli ottimi rapporti, a stendere poco prima, diciamo, della metà di marzo, un progetto, una proposta di progetto che ha titolo proposta di attività di ricerca per seguire la fase di post emergenza conseguente allo sversamento di petrolio nel sistema Lambro Po. Questo a supporto delle attività che l'autorità di bacino aveva pianificato in accordo con le regioni, ovvero con le ARPA. Noi abbiamo inviato questo documento coordinato con l'ISMAR per la parte di loro competenza, che è il delta e poi il mare. Da allora non abbiamo avuto più informazioni. Sappiamo che la cosa si è arenata per motivi prettamente, diciamo, di copertura finanziaria. Più passa il tempo dal disastro, meno riusciremo a capire quello che è accaduto e quali implicazioni avrà per il futuro delle piante, degli animali, delle coltivazioni, degli allevamenti che sono lungo le zone colpite da questa marea nera. Ci salutiamo qui, buon anno a tutti, speriamo sia migliore di quello che si è appena concluso. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto e appuntamento alla prossima settimana.